مرحبا. Net sounds worth listening. Sono le ore 11:46 di lunedì 2 maggio 2005. Giovedì scorso 4.400.000 spettatori hanno visto su Canale 5 Ho sposato un calciatore. Se siete uno di loro, avete sbagliato podcast. Pop Power è una guida settimanale su come usare internet per ascoltare qualcosa di più interessante di quello che propongono i media tradizionali. Oggi però non parliamo di una radio, di un podcast e nemmeno di un sito web, ma semplicemente di una persona che ha alcune cose interessanti da dire. March 7th, 2005. Being somebody. Almost everybody wants to be somebody. They want to make something of their life, to be remembered after they're gone. To this same end, I've noticed that people take very different roads, seemingly as numerous as the people themselves. Una cosa che accadeva spesso nella seconda metà degli anni 90 è che qualcuno vi dicesse «vieni a vedere il mio sito web», fino a far balenare il sospetto che avere un proprio sito su internet fosse quasi un obbligo, un po' come con il biglietto da visita o con il curriculum vitae. Oggi, per fortuna, le cose stanno cambiando, anche se più lentamente di quanto vorremmo. E la gente decide di avere un ruolo attivo su internet solo quando ha qualcosa che intende condividere: musica, immagini, testi, idee e così via. Mentre sia il formato, il sito tradizionale, il blog, il fotoblog, la web community, sia il culto della propria personalità, tipico di alcune cosiddette blog star, potrebbero cominciare a diventare secondari. I don't need to have changed their life or any such delusion of grandeur. Just a small sliver of better will do. Maybe when we're all old and gray and they hear that I've died, they'll think back and have something good to mutter about me. Ultimately, we're all like cells in a body. We die and get replaced, but the larger organism lives on. Humanity lives on. Insomma, forse possiamo essere ottimisti. La conversazione potrebbe diventare più piacevole. Se qualcuno ti dice che nel weekend ha fatto delle foto o che ha suonato in un garage, potremmo cominciare a dare per scontato che queste cose si possono scaricare da internet. Lentamente le idee e la creatività potrebbero riconquistare la propria centralità, relegando lo strumento al suo ruolo originario, e cioè a quello strettamente funzionale. Poi ci sono casi in cui la libera condivisione della propria creatività è il frutto di una decisione meditata, quasi di una scelta di vita. È il caso di Bill Wadman, che con il suo Project 365 ha deciso per un anno di pubblicare ogni giorno una foto, un testo, un brano musicale, tutti rigorosamente farina del suo sacco. Una scelta estrema, d'accordo, ma che, come sentiremo, ha una precisa motivazione sociopolitica, una motivazione che abbiamo provato ad approfondire con il diretto interessato. Buongiorno Bill, intanto grazie della tua disponibilità. Abbiamo già ascoltato un brano dai tuoi reading e anche un po' della tua musica. Per cominciare ti chiederei se puoi descriverci brevemente che cos'è il progetto 365 e quali sono i suoi scopi. Tutto è nato con le elezioni presidenziali dello scorso novembre. Personalmente sono stato piuttosto scontento della rielezione di George Bush. Non mi piaceva l'idea di rimanere del tutto inerte di fronte alla prospettiva di dover convivere per altri 4 anni con la sua amministrazione. Anche se a 30 anni la mia vita continuava, con la sua routine, il lavoro, le uscite con gli amici, credevo fosse necessario mettermi alla prova. Così mi sono detto, vediamo se riesco a fare qualcosa di creativo per un intero anno solare. Ed è così che è nato Project 365. Ovviamente non è facile rispettare sempre la regola di pubblicare qualcosa tutti i giorni. Alle volte finisco per bloccarmi, o per concentrarmi solo sulla musica, o solo sulle foto. È difficile essere sempre ispirato. Occorre dire che si tratta di un progetto davvero ambizioso. Non credo esistano sul web scommesse individuali così impegnative dal punto di vista creativo come la tua. È vero. Una cosa è avere un audioblog o un fotoblog o pubblicare ogni tanto un brano musicale. Una cosa è pubblicare ogni giorno qualcosa di nuovo, indipendentemente dal formato, dalla musica, foto e testo. Del resto sono il primo a dire che non tutto quello che riesco a pubblicare è oro colato. Non può essere tutto fantastico, ma io credo che il progetto debba essere considerato nel suo insieme. Del resto anche il mio lavoro è molto creativo. Sono art director in un'agenzia pubblicitaria e molto spesso la mia giornata è fatta di 13-14 ore di lavoro esclusivamente creativo. Puoi facilmente capire dopo una giornata del genere quanto mi spaventi l'idea di dover essere creativo anche una volta tornato a casa. Magari però sta cominciando a diventare utile per il tuo stesso lavoro. Sicuramente si tratta di un importante esercizio per la mente. Quest'obbligo quotidiano mi aiuta ad accendere l'ispirazione quando ne ho davvero bisogno. Ho notato che, per esempio, prima di avviare Project 365, non ero in grado di scrivere dei testi, nemmeno una poesia, nemmeno i testi di un brano musicale. Ora le cose stanno diversamente. Possiamo immaginare che il tuo progetto porti via molto del tuo tempo, comportando la realizzazione di fotografie, illustrazioni, testi, animazioni, ma anche video, brani musicali, reading, che sono tra l'altro scaricabili anche in podcasting. Eppure molte persone con cui sono in contatto rinunciano a realizzare anche un semplice podcast perché temono di non trovare il tempo. Allora la domanda è: come riesci a trovare un equilibrio tra il lavoro, il tempo libero e il tuo progetto, che di sicuro non possiamo considerare tempo libero in senso stretto? Giusto. Che cos'è il tempo libero? Intanto non è necessario per un podcast, ad esempio, avere regole strette come le mie. Si può andare in onda una volta alla settimana o una o due volte al mese e comunque contribuire alla diversificazione delle idee disponibili in rete. Per quanto mi riguarda, la maggior parte del mio lavoro è prodotto nella tarda nottata, quando nessuno mi può disturbare. Vivendo da solo posso assicurarti che fare una cosa del genere è molto più soddisfacente che accendere la TV e non tirarne fuori nulla di interessante. Sicuramente vivere da solo ti aiuta. So che non hai alcuna intenzione di sposarti. Allora hai letto quel mio testo sul matrimonio. Comunque lo scorso weekend sono stato al matrimonio del mio migliore amico e devo dire che mi è piaciuto molto. Quindi posso rassicurare le tue ammiratrici e dir loro che forse stai cambiando idea. Guarda, ci sono giorni in cui riesco a dedicare molto più tempo al progetto, ma devo dire che non c'è una relazione diretta con la qualità del prodotto finale. Per farti un esempio, il 2 marzo, in 5 minuti, ho scritto qualche verso di cui vado molto fiero. Il giorno dopo ho composto una canzone che mi ha chiesto 5 ore di lavoro e sono altrettanto soddisfatto del risultato. Una delle pagine più interessanti del tuo progetto è quel breve testo in cui illustri la tua teoria sul perché la qualità di un progetto creativo è inversamente proporzionale al numero delle persone che ci lavorano. E l'ho trovata particolarmente azzeccata, specialmente se applicata ai podcast. Infatti, al contrario delle produzioni radiofoniche tradizionali, in molti casi i podcast sono il prodotto di un piccolo gruppo di persone e addirittura quelli di maggior successo non superano i 3-4 collaboratori, guidati chiaramente da un autore principale che dà una forte impronta ai contenuti. Siamo forse sull'orlo di una nuova definizione di creatività nel lavoro di squadra? Beh, se i progetti di maggior successo sono realizzati da 3-4 persone, credo di aver bisogno di 2 o 3 persone che mi diano una mano. Penso che per un programma radiofonico classico, i vincoli logistici e i problemi organizzativi renderanno comunque sempre necessario un certo numero di persone. Bisogna poi aggiungere che la radio tradizionale costa, e con i costi fatalmente cresce il numero di teste che vengono coinvolte. Ogni idea passa al vaglio di almeno 3 persone per essere sicuri di non scontentare qualcuno. Il vantaggio è che in questo modo puoi avere la ragionevole certezza di non far passare le cattive idee, ma allo stesso tempo si corre il rischio di arrotondare troppo la buona idea originale, finendo per snaturarla. Non so quali potranno essere tra 10 anni le prospettive e gli sviluppi dei nuovi modelli come i blog e i podcast. Ci sono troppe variabili in gioco e troppe cose stanno ancora cambiando. Ma posso dire che i nuovi modelli di diffusione della creatività stanno dando un bello scossone ai media tradizionali, che sono soprattutto spaventati dall'idea che un blog o un podcast possano essere fruiti gratuitamente da 10.000 persone. Se poi parliamo delle spese di produzione di questi contenuti, ebbene, queste sono davvero risibili, se pensiamo che il costo del supporto rispetto, per esempio, al costo della stampa su carta è completamente diverso. Beh, c'è un altro vantaggio nel fatto di lavorare da soli. Non devi mai preparare delle slide in PowerPoint per vedere le tue idee approvate da qualcuno. Ah beh, se è per questo, io per fortuna non ho mai fatto una presentazione in PowerPoint. E veniamo all'ultima domanda. Dopo il documentario di Michael Moore, Fahrenheit 9/11, qualcuno ha detto che tutto questo dare addosso a George Bush, specialmente da parte di chi frequenta internet, si sta rivelando in realtà controproducente. Vorrei sapere se sei d'accordo con questa chiave di lettura. La mia amica Beth avrebbe parecchie cose da dire su Bush. Forse potresti intervistare lei. In ogni caso, se ci si limita a dire che Bush è un idiota, beh, questo è controproducente, sono d'accordo. Ma se qualcuno ha delle idee che sono in grado di rivelare qualcosa di nuovo su questo personaggio, allora sono favorevole. Il dialogo non è mai una cattiva idea, perché smuove le coscienze. Le persone che adesso ti incitano a seguire la corrente sono le stesse, quelle che fin dall'inizio non si sono poste il problema, le stesse che pensavano che le cose non potessero peggiorare granché con il nuovo presidente. Se hai una vera opinione su Bush, invece, oggi è perché sei più spaventato che semplicemente contrario alla sua politica. Quindi sei consapevole che la questione ti riguarda direttamente. Detto ciò, dunque, io non mi farei troppi problemi in questo momento a dare addosso a George Bush. Con questo si chiude il numero 3 di Pod Power. Tutte le puntate di Pod Power sono realizzate sotto licenza Creative Commons e sono consultabili sul sito podpower.splinder.com, dove troverete anche i link a tutti i media menzionati. La sigla di Pod Power è Dig dei Noise Units, la voce di Bill Wadman, nella traduzione all'italiano è di Marco De Mico. Per i vostri commenti e suggerimenti, sempre benvenuti, potete scrivere ad antoniocontent@yahoo.it. Buoni ascolti e alla prossima!